Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt, io sono Maurizio Melis. Oggi torniamo all'area Science Park, il parco tecnologico di Trieste. Ci siamo stati appena settimana scorsa. Ci torniamo per raccontarvi di una soluzione innovativa che permette di vestire edifici di vario tipo con uno speciale cappotto termico che non solo isola ma può anche riscaldare o raffreddare l'intero edificio. Il primo cappotto attivo sarà operativo entro fine anno su di una foresteria del parco tecnologico, dove è in corso di installazione proprio in questi giorni. Ne parliamo con l'ingegnere Gianfranco Pellegrini, che del cappotto attivo è l'inventore, inoltre è amministratore delegato di STP SRL, che detiene assieme ad Area Science Park il brevetto su questo oggetto. Buonasera Pellegrini, benvenuto a Mr. Kilowatt. Buonasera a lei. Senta, io le lascio la parola, ci spieghi di cosa si tratta. Dunque, sì, si tratta di un isolamento che non solo isola, ma contiene anche una serpentina al suo interno, del tutto simile a quelle che si usano nei pannelli radianti a pavimento, che consente non solo di isolare meglio la struttura, ma anche di scaldare e raffrescare. Quindi tutta una serie di valenze rispetto al pannello radiante classico, in quanto consente intanto di avere una superficie di scambio termico nettamente superiore rispetto a quella disponibile per i pannelli radianti a pavimento, in quanto si può utilizzare tutto l'involucro edilizio anziché solo le superfici in pianta disponibili. Certo. Quindi questo consente di andare a lavorare con temperature dell'acqua molto più basse rispetto a quelle a cui siamo abituati con i pannelli radianti, e ciò dà dei vantaggi in termini di efficienza del sistema. Inoltre, uno dei grossi problemi che hanno i pannelli radianti nel far raffrescamento è quello che, per via appunto dell'insufficiente superficie disponibile, non consente un raffrescamento completo, ma necessita di un'integrazione con altre soluzioni integrative, appunto, quali il deumidificatori o dei ventil convettori, insomma. Quindi abbiamo di fatto una serpentina che cosa trasporta? Acqua, immagino? Sì, trasporta acqua calda d'inverno, non più di 25 gradi, è fresca d'estate intorno ai 20 gradi. Quindi questa serpentina avvolge, per così dire, l'edificio, e sopra questa serpentina viene poi posizionato il cappotto, che invece è proprio un cappotto isolante. Isolante a tutti gli effetti, sì, esatto. Ecco, in questo modo di fatto voi riuscite, come dire, a trattenere tutto il calore all'interno del cappotto e quindi dentro l'edificio, e contemporaneamente d'estate, quando il sole magari picchia sulle pareti, grazie a questa serpentina di acqua fresca portate via il calore. Esattamente, il funzionamento è proprio quello. Ecco, mi pare di capire che un vantaggio importante è che non bisogna spaccare niente, cioè se pensiamo al classico condominio magari di 15-20 famiglie in cui rifare l'impianto di riscaldamento è un'epopea perché bisogna spaccare tutto per ammodernarlo, qui invece non serve niente di tutto ciò. Esattamente, con questo intervento solo dall'esterno si riesce a mandare letteralmente in pensione il vecchio impianto esistente e sostituirlo integralmente con questo di nuova generazione. È adatto a che tipo di edifici? Allora, prevalentemente gli edifici devono essere tali per cui la dispersione dalle pareti esterne deve essere notevole. Quindi devono essere dei cattivi edifici? Sì, rispetto ai sistemi tradizionali di riscaldamento che agiscono dall'interno, quindi i terminali, l'ambiente sono nella zona riscaldata, in questo caso è un sistema che agisce dall'esterno, per cui il fluire del calore attraverso la parete deve essere incentivato il più possibile, quindi paradossalmente più dispersiva è la parete più performante risulta il sistema. Quindi immagini per esempio in Italia case popolari o alcune tipologie di scuola, oppure immagini a tutti gli edifici che sono stati costruiti nell'ex blocco sovietico. Certo, che sono tra l'altro dei parallelepipedi perfetti, quindi anche facili da ricoprire probabilmente. Infatti. Costi e tempi di rientro di un'operazione di questo genere? Sì, questo progetto è già stato ingegnerizzato ed effettivamente, essendo immaginato per edilizia di basso pregio, tutto il sistema è stato immaginato poco costoso, quindi con tutta l'impiantistica in plastica, il montaggio stile plug and play, con pannelli che si montano in modo veloce, per cui il costo della realizzazione, fornitura e posa è nettamente più basso. Per dare solo un'idea, il cappotto ventilato classico va sui 130 euro al metro quadro, qua si parla di 40 euro, ecco, per intenderci. Il cappotto ventilato è una struttura per cui si lascia un intercapedine fra il cappotto e la parete, lo dico per gli ascoltatori. Senta, avete già un partner industriale? Ecco, non ancora, perché i partner industriali tipici producono i cappotti ventilati e normalmente sono stranieri, quindi proprio per diciamo così una mission di Aria Science Park cerca inizialmente dei partner italiani, poi solo in seconda battuta cede eventualmente la tecnologia all'estero. Allora lanciamo un appello, insomma, fatevi sotto, lo dico a chi è in ascolto e potrebbe in qualche modo essere interessato a una tecnologia del genere. Va bene, grazie Franco Pellegrini, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Siamo in chiusura. Nella puntata di Mr. Kilowatt di domani scopriremo una nuova tecnologia sviluppata a Firenze che promette di dimezzare i costi energetici di produzione del pellet, i piccoli cilindretti di legno che si bruciano nelle apposite stufe. Buona serata.